Fresh Bit di Giulia Crivelli. Join a worldwide musical meditation throughout April. Anyone can be part of a global performance over Zoom. Tra i tanti eventi virtuali che si stanno organizzando di questi tempi, uno ha molto colpito il New York Times, che gli ha dedicato una pagina intera con il titolo «Unitevi a una meditazione musicale planetaria». Per tutto il mese di aprile chiunque può essere parte della performance globale fatta con Zoom. La prima parola che ci interessa è join, imperativo del verbo join, regolare, to join, joined, joined, che ha molti significati. Unire, prima di tutto. How do these two pieces join? Come si uniscono questi due pezzi? Poi unirsi, entrare a far parte. I have joined an aerobics class. Mi sono iscritta a un corso di aerobica. She joined the company 3 months ago. Si è unita alla società, è stata assunta, 3 mesi fa. Do you mind if I join for a drink? Ti spiace se mi unisco a voi per bere qualcosa? Tra gli idiom possiamo ricordare to join the battle. Local residents have joined battle with the council over the lack of parking facilities. Gli abitanti del luogo hanno unito le forze con il consiglio comunale per far presente la mancanza di parcheggi. E poi c'è to join the club. So your boyfriend cheated on you? Join the club. Ah, il tuo fidanzato ti ha tradita? Benvenuta nel club. To join hands ha un significato più che letterale, simile a quello to join the battle. Education has been reluctant to join hands with business. Il settore dell'istruzione si è mostrato riluttante a formare un'alleanza con il mondo dell'economia. To join in è invece un phrasal verb che significa partecipare attivamente. She listens, but she never joins in. Ascolta, ma non interviene mai. To join up, invece, significa essere reclutato nelle forze armate. Joint è invece un sostantivo che significa giuntura e un aggettivo che vuol dire unito o unitario. The report was a joint effort. Il rapporto fu il risultato di uno sforzo comune. Tornando al titolo del New York Times, notiamo la preposizione throughout, letteralmente attraverso e poi fuori. They export their products throughout the world, esportano in tutto il mondo. The museum is open daily throughout the year. Il museo è aperto ogni giorno e per tutto l'anno. The ceremony lasted 2 hours and we had to stand throughout. La cerimonia durò 2 ore e fummo costretti a stare in piedi per tutto il tempo. The house was painted throughout. La casa fu ridipinta in ogni singola stanza.